RadioTube Social Village di Marta Cagnola. 16:05 a Radio 24, bentornati a RadioTube. Sono le nostre due ore di diretta del sabato, nelle quali torniamo ad assaporare un po' di cose belle, ascoltare un po' di musica, scoprire un po' di serie TV da guardare nel nostro lunghissimo, lentissimo tempo libero in casa, che però dobbiamo sfruttare nel miglior modo possibile, perché ci aiuta ad affrontare al meglio tutto quello che ci accade. Quindi per due ore deponiamo i pensieri, anzi poi balleremo anche, non vi dico molto di più perché ci saranno un sacco di ospiti da scoprire con i quali ci collegheremo durante le nostre due ore di RadioTube. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e ci sono anche i miei account social, che sono chiocciola Marta Cagnola su Instagram e su Twitter. Parleremo di musica, vi ho detto che balleremo, parleremo di televisione, però visto che noi abbiamo spesso e volentieri, anzi tutte le settimane abbiamo a che fare con le serie televisive, questa settimana non possiamo che partire in questo modo. Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo, io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma qualcuno avrà già visto la puntata in cui va in onda questa versione meravigliosa di Ti amo. Non è la prima canzone italiana che viene resa famosa nel mondo da questa serie televisiva, che qualche anno fa, lo sappiamo, ha contribuito a far conoscere di nuovo Bella Ciao in tutto il mondo. Adesso tocca Ti amo e tocca anche a Cerco un centro di gravità permanente di Franco Battiato. Ovviamente stiamo parlando del ritorno della Casa de Papel e ne parliamo con un grande amico di RadioTube. Bentornato a Paolo Armelli. Ciao Paolo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora dimmi, già fatto maratona? Perché io sì, vista tutta. Tutta? Sì. Allora io devo ammettere che non è tra, la Casa di Carta non è tra le mie serie preferite in assoluto, la vedo perché sono curioso, no, ovviamente. E poi è, diciamo, è una, allora diciamo così, momento. Se qualcuno non l'avesse vista e non la guardasse, un po' però ha bisogno comunque di sapere che cos'è, perché dai, è un argomento di conversazione di quelli immancabili. Esatto, una volta si diceva zeitgeist, se non conosci delle cose sei un po' escluso dalle conversazioni. Cioè no, per dire effetti, i nostri aperitivi che adesso facciamo con le app delle video chat, insomma mi sa che secondo me oggi durante l'aperitivo si parlerà tantissimo della Casa di Carta. Se ne parla tantissimo, anche perché giustamente, come sei partita tu, è una serie che ha tutte queste piccole chicche, no? Ovviamente oltre a essere una serie super appassionante perché parla di queste rapine, questi criminali, poliziotti, cioè poi tutta la passione, la tensione tra i personaggi, e poi ha queste genialate che inserisce ogni tanto, appunto Bella Ciao divenuta una hit dance nelle discoteche di mezzo mondo, non ce l'aspettavamo nessuno, insomma è stata veramente un merito di questa serie che prende certe cose e le remixa in modo anche abbastanza ironico. Allora, Paolo, devo dire, grandissimo successo per una serie rilanciata da Netflix, serie che peraltro in patria all'inizio non aveva avuto tutto questo successo, quindi ha avuto prima un successo internazionale che un successo in patria. Però è un periodo in cui le serie spagnole stanno andando piuttosto bene, Netflix ma anche Amazon Prime Video hanno un sacco di serie spagnole, secondo te come mai? Allora, ci sono ovviamente vari fattori. Innanzitutto il fatto che La Casa di Carta, per meriti suoi, abbia avuto un grande successo, ha lanciato un po' il trend delle serie spagnole o comunque di lingua spagnola. Se ti ricordi, un po' di anni fa c'era tutto il filone invece dei gialli nordici, le serie crime, certo, che venivano certo. Scandinavia. Quindi ciclicamente, insomma, la bustola delle serie TV si sposta verso un certo mercato. C'è anche da dire che lo stesso mercato delle piattaforme streaming, che parla a un mondo internazionale, quindi enorme, ovviamente punta sui cavalli di battaglia più forti. Non ci dimentichiamo che lo spagnolo è la seconda lingua, la terza lingua più parlata al mondo, se consideriamo il cinese o neanche. Certo. Quindi ha un mercato di ricezione vastissimo, e non a caso appunto gli investimenti soprattutto di Netflix sul mercato spagnolo e latinoamericano sono enormi in questo periodo. Appunto c'è un trend, c'è la possibilità di raggiungere un pubblico molto molto vasto, e poi ci sono anche lì tante storie da raccontare, punti di vista inediti e anche a volte anche particolari, che magari le produzioni angloamericane a cui siamo abituati sempre non ci avrebbero dato. Dimmi che cosa piace a te particolarmente, che cosa ci consigli? Allora, tralasciando un'altra serie molto di tendenza, molto seguita su Netflix spagnola, che è Elite, che tra l'altro con La Casa di Carta si scambia parecchi attori. Sì, ormai abbiamo ormai conosciuto gli attori spagnoli, perché ci stiamo abituando a vederli in una produzione o l'altra e cominciamo a conoscere le star delle fiction spagnole. Esatto, li riconosciamo benissimo. Io vi consiglio, tra le tante serie spagnole che potete trovare in streaming su Netflix, c'è Paquita Salas, che è un'altra piccola chicca che appunto viene dal mercato, dalle TV generaliste spagnole. È un'altra produzione di Antena 3, la stessa che all'inizio faceva La Casa di Carta, ma che appunto è andata online, ha avuto un riscontro un po' di nicchia, poi l'ha presa Netflix e l'ha fatto diventare anche lì una produzione vista in tutto il mondo. Non è ovviamente popolarissima, è una serie un po' di nicchia, ma racconta di un agente delle star, in realtà è un attore che interpreta questa donna un po' sopra le righe, che ha una crisi professionale perché la sua più grande attrice la lascia e lei deve ricominciare da capo in un mondo dello spettacolo che ormai è cambiato. E lei si trova ovviamente in mezzo a mille problematiche e deve insomma sbarcare il lunario in un mondo completamente cambiato e ovviamente combinando un sacco di disastri. Questa è più comica che sì, altro. Sì, certamente. Hai citato Elite, perché a me viene sì. A chiamarla Elite, però so che si chiama Elite. Cosa ne pensi? Io la guardo così, ormai più per abitudine che per altro, perché la trovo un po' questa storia di questi adolescenti viziati che si trovano in mezzo a crimini e a deliri di ogni tipo. A te piace? Allora, devo dire che secondo me questa è una serie che non può che essere un guilty pleasure. Allora, o sei un adolescente che si affaccia al mondo e allora tutte quelle cose lì ti sembrano una scoperta assoluta e un po' pruriginosa, se no appunto è veramente un guilty pleasure, che anche quello le sue caratteristiche, e secondo me ha in qualche modo contribuito anch'esso a spingere quell'altro sottogenere seriale che va molto in questo periodo, che è il teen drama. Noi abbiamo avuto in Italia Baby, sempre fatto da Netflix, però ad esempio c'è stata tutta quella fortunata c'è la fortunata vicenda di Scam Italia, del insomma, quale io sono una fan scatenata, esatto. Ecco, il mio guilty pleasure è Scam, che adoro, che ha se vogliamo, una profondità e un ritratto della società molto più convincenti di quanto non faccia Elite, appunto. Però anche quella è una serie che secondo me ha i suoi meriti, soprattutto se inserita nel panorama seriale in generale. Ecco, anche di quella non posso dire di essere un fan sfegatato. Però ve la guardiamo. Allora, volevo dire all'ascoltatore che scrive al 349-238-6666: guardo Netflix solo in lingua originale, per questo non ho mai visto La Casa di Carta non parlando spagnolo. E invece è il momento giusto di mettersi a guardare queste serie spagnole, perché così uno approfondisce anche la lingua, visto che, insomma, non è totalmente incomprensibile lo spagnolo, con i sottotitoli, insomma, ci si può un po' anche abituare al suono dello spagnolo. Potrebbe essere un buon esercizio. Paolo, grazie per essere stato con noi. Paolo Armelli, grazie ti a voi, aspettiamo grazie, sempre a RadioTube per parlare di serie TV. Alla prossima, grazie. Ciao, Paolo. Buon pomeriggio, ciao. Breve pausa, traffico, e poi parliamo ancora di TV, ma di qualcosa di completamente diverso. RadioTube Social Village. Sempre 349-238-6666, ascoltatore che scrive: non provare a spoilerarmi qualcosa sulla nuova stagione della Casa di Carta. Assolutamente no, hai sentito? Non ho detto nulla, se non abbiamo parlato di queste due canzoni che ormai l'ho detto e ne ho fatto sentire un pezzettino perché erano su tutti i giornali online, ma detto nulla di quello che succede nella nuova stagione, perché appunto io mi sono fatta la maratona per arrivare preparata alla puntata, ma non ho detto niente. E poi dice: non ci posso credere, stanotte mi sono riguardato La Guerra degli Antocchi e tu oggi hai intervistato la scrittrice del libro. Non ero io, era Alessandra Tedesco. Alle 6:30 va in onda Il Cacciatore di Libri e poi va in onda anche alle 15:30, e non ero io, era Alessandra che andava in onda prima di noi. Ciao Alessandra Tedesco. Allora, parliamo di televisione? Dai, parliamo di qualcosa che ancora ci fa sognare un pochino di normalità in TV. Pechino Express, la più grande avventura di viaggio mai raccontata in TV. Siamo tornati in Oriente, dove tutto è iniziato. È un periodo molto strano per la televisione, che da settimana si è dovuta fermare o reinventare. Ne parlavamo anche la scorsa settimana. Pochi punti fermi sono rimasti, uno di questi è Pechino Express. Quando va in onda i social sembrano quelli di quando ancora vivevamo la normalità di prima. Bentornato a RadioTube a Costantino Della Gherardesca. Ciao Costantino. Oh, ciao carissima. Giustamente, sai, io mi occupo di intrattenimento e trovo che sia fondamentale in questo periodo cercare di rallegrare le persone. D'altronde a fare informazione ci sono i giornalisti, i politici, e ci sono rimasti pochi entertainer, diciamo, il cui compito è tirare su di morale la gente. Ho letto in uno dei tuoi post di Instagram, hai postato una bellissima opera d'arte cinese e hai scritto: vi facciamo divertire, distrarre e viaggiare con la mente. Per una sera dunque possiamo immaginare di essere ancora quelli di prima? Assolutamente sì, ma noi in realtà siamo quelli di prima, abbiamo gli stessi desideri e le stesse necessità. Si vive una volta sola e il mondo è un posto che va conosciuto. Poi oramai viviamo in un'economia globale, l'abbiamo visto con le relazioni tra l'Italia e gli altri paesi, come si è sparsa la pandemia, come ci arrivano gli aiuti dagli altri paesi. Quindi per conoscere la realtà del proprio paese, al giorno d'oggi bisogna in realtà conoscere tutto il mondo, perché siamo tutti interconnessi. Tu stesso fai un po' di autoironia sul programma registrato prima del... Insomma, bisogna ribadirlo anche per i posti in cui avete girato. Beh, certo, l'abbiamo registrato in Cina, non siamo stati nel luogo della Cina, diciamo, dove c'era il focolaio di Covid-19, siamo stati in un'altra parte della Cina, però era comunque prima dell'emergenza sanitaria, perché in tutta la Cina, quando c'è stato il momento di emergenza, c'è stato un lockdown, come in Italia, chiaramente. Quindi anche dei miei amici che vivono a Yunnan, che è come dire vivere nel Val d'Orcia, lontanissimi dai focolai, si sono dovuti giustamente chiudere a casa e per far sì che il virus non dilagasse e non arrivasse anche a loro. Insomma, c'è stato un lockdown in un paese di 1.400.000.000 di persone, pensa. Pazzesco. La prossima settimana arriverete in Corea, paese molto amato dai ragazzi. Sui social ho visto soprattutto ragazze che non vedono l'ora di sapere se parlerete dei loro beniamini, cosa farete vedere della Corea. Ah, assolutamente sì. Allora, ci sarà una colonna sonora K-pop, perché l'autore che lavora con me, Paolino Quilici, è un grandissimo fan del K-pop e fa parte del BTS ARMY, è un ARMY, si chiamano così fra di loro, e vedremo tutte le, vedremo un paese che forse è il più moderno del mondo oramai, ha anche superato la Cina e il Giappone, e straordinario, spettacolare, come fare un salto nel futuro. Quindi io veramente consiglio a tutti, proprio per vedere qualcosa di nuovo, oltre all'intrattenimento dei concorrenti in gara, l'ironia, le risate che si fanno, si vedrà veramente qualcosa di estremamente nuovo, moderno, contemporaneo, si vedrà il futuro, insomma, il paradigma verso cui noi italiani dovremo essenzialmente muoverci, capito? Perché dobbiamo fare anche noi questo salto in avanti e diventare un paese un po' più come la Corea del Sud, che infatti ha gestito anche questa triste situazione sanitaria meglio di qualsiasi altra nazione. Che cosa ti ha lasciato questo viaggio? Che cosa ti è rimasto dentro? Ma sai, io, guarda Marta, sinceramente, io viaggio, io sono molto veloce, mi sveglio molto presto la mattina e lavoro tutto il giorno, perché devo andare a fare dei lanci nei luoghi in cui i concorrenti non passano, ok? Loro corrono e loro sono in una gara. Però chiaramente ci sono dei posti e delle cose che vanno fatte vedere, quindi devo sia fare quello, sia tenermi davanti ai concorrenti, quindi spesso mi sveglio alle 4 del mattino. Tendo spesso, a volte ho un giorno per vedere delle cose belle, mezza giornata, ma le cose su cui mi concentro io, se devo essere onesto, è se il mio letto quella sera sarà pulito, come il cibo e avere dei bagni puliti dove andare. Quindi non è un dettaglio. Non è un dettaglio, sì. Poi per carità, però in realtà sono i viaggiatori a vivere i paesaggi meravigliosi e tutto quanto, nonché quelli che fanno le riprese. Ci sono dei cameraman apposta che vanno a fare le riprese dei paesaggi, dei luoghi, ecco, loro vivono di più queste nazioni più di me. Io infatti molte volte, cosa è successo? Ho visto dei luoghi come l'Indonesia, come la Colombia, molto in fretta, senza godermi, diciamo, la cultura, i paesaggi, contrariamente ai concorrenti e ai telespettatori, e quindi sono tornato da solo e me la sono fatta con calma. Una delle caratteristiche di Pechino Express è quella di lanciare dei personaggi che si mostrano diversi dalla percezione che aveva il pubblico di loro. Chi ti ha stupito quest'anno? Beh, Asia Argento, che è una persona a cui voglio molto bene, è una ragazza straordinaria che a Pechino è uscito fuori proprio il suo aspetto solare e positivo, e quindi è stata molto molto amata dal pubblico, e come lei anche la sua amica d'infanzia, Vera Gemma, ovviamente, che ha un lato comico spiccato e che è, diciamo, molto simile a me, perché è un po' una... dato fanfarone pigrone, diciamo, in cui mi identifico, infatti ci sentiamo spesso. E poi c'è Enzo Miccio, che è l'opposto di una persona come me o come Vera, e lui è proprio uno determinato nella vita, anche prima di Pechino Express, uno stacanovista totale. Cioè, io mi do da fare quando devo lavorare, in realtà, anche se non sembra, perché è sempre una flemma molto pigra anche in video, però lui proprio si vede che è proprio competitivo al massimo su tutto. È diventato un meme umano, la rete è invasa, sì, dalle sue uscite, le parodie. Sì, sì, è feroce. Cioè, certe volte lui andava a letto già vestito, perché era pronto al mattino dopo, appena lo chiamavo, a svegliarsi e a correre. Una cosa incredibile. In questi giorni anche tu stai facendo un sacco di dirette Instagram. Sì. Tieni compagnia alle persone, ma Instagram ti tiene anche compagnia, un po' tutte e due, dai. Brava, tengo compagnia e cerco di rallegrare le persone. Fai conto che ho avuto cinque dirette, cinque medici che tornavano dall'ospedale dove c'era una situazione difficile per via del coronavirus, che mi dicevano: guarda, adesso con te vogliamo parlare d'altro, e volevano sentire, diciamo, le mie, insomma, cattate, se si può dire, le mie pagliacciate, si può dire. Si può dire. Quindi chiaramente cerco di tirare su le persone di morale, ma ovviamente necessito anch'io questo contatto umano, perché meno male sono solo. E quindi, insomma, ci teniamo compagnia a vicenda, io e il pubblico. Dai, prendiamo un po' di rincorsa lunga per la prossima stagione, per i prossimi progetti. Sicuramente sì, farò Ballando con le Stelle con Milly Carlucci, dove stiamo preparando delle cose veramente pazzesche, inedite. Se no non l'avrei fatto, se non mi avessero dato, diciamo, mano libera per fare delle follie che vedrete, che saranno spettacolari. Non si sa ancora quando va in onda, perché i palinsesti sono tutti ancora non decisi per via di questa emergenza. E però dopo il lavoro e dopo delle cose che sicuramente farò per la televisione, sai, per me è importantissimo viaggiare. Quindi non vedo l'ora di poter tornare in India, nel sud dell'India, andare nei centri ayurvedici, seguire quelle cose turiste a cui io sono molto interessato, andare in Irlanda, dove non sono mai stato, anche per 3 giorni mi basterebbe, un weekend in Irlanda sarei l'uomo più felice del mondo. Cioè, all'epoca, se ci pensi, solo 2 mesi fa, andare un weekend a Dublino era un biglietto da 80 euro, era come, non so, non era nulla, adesso è un sogno. No, è vero, la percezione è proprio cambiata e abbiamo tutti una prima meta in testa per quando potremo tornare a viaggiare. Intanto veniamo con te in Corea per la semifinale di Pechino Express. Martedì 21:20 su Rai 2. Guarda, veramente ti consiglio, Marta, e consiglio a tutti i tuoi ascoltatori di vederla, perché questa volta siamo veramente fieri del prodotto e sarà divertentissimo. Costantino, un abbraccio, spero di persona presto, grazie. Lo spero tanto anch'io, dai, un abbraccio grande. RadioTube Social Village. Abbiamo parlato nella prima mezz'ora del nostro RadioTube Social Village della Casa di Carta, senza fare spoiler, e anche di tutte le altre serie spagnole che in questo momento ci sono su tante piattaforme, su Netflix, ma non solo, anche su Amazon Prime Video. A proposito di Amazon Prime Video, io sono curiosa di questa Caronte, prima non l'abbiamo citata, questo poliziesco spagnolo che presto mi accingerò a vedere, perché sono curiosa di capire come abbiamo cercato di capire un po' con Paolo Armelli, col nostro amico Paolo Armelli, qual è il segreto di queste serie spagnole che in questo momento fanno furore. Non ho fatto spoiler sulla Casa di Carta, quindi potete andare a risentire la trasmissione in podcast, sull'app, eccetera. E proprio adesso abbiamo parlato di Pechino Express, perché è uno degli ultimi baluardi della TV che avevamo prima, questa TV che adesso è diventata un po' nuova, si è reinventata, insomma è un periodo così un po' per tutti. Adesso però vorrei parlare di musica con un altro grande ospite che raggiungiamo, come sentite, insomma, con un po' grazie alla tecnologia, perché ovviamente non possiamo più da un po' di tempo accogliere gli ospiti nei nostri studi e non vediamo l'ora di tornare a farlo. Un ospite che io amo in particolar modo, e questo è il suo nuovo singolo proprio da ascoltare. Niente da dire, in un mondo dove tutti lo fanno, sbiaditi rapper, me la sai in amaro, la gran cassa del potere e l'inganno. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vedo piuttosto un cavallo che ha zoppato, galoppa col cuore, vincere ancora dal suo piedistallo, perché il vuoto va riempito d'amore. E non ho più niente da dire, piazza rimane il danno. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Avete sicuramente riconosciuto la sua voce, è tornato tra l'altro anche per festeggiare un anniversario importante. Benvenuto a Radio Tube ad Alberto Fortis. Ciao Alberto. E ciao a tutti i vostri ascoltatori, buon pomeriggio. Intanto Alberto ti devo chiedere come stai trascorrendo questo periodo. Guarda, io in questo periodo sono nella mia casa di famiglia a Domodossola, perché ero venuto qua il 7-8 di marzo casualmente per un weekend, proprio anticipando la vigilia poi dell'uscita il 13 del nuovo lavoro, e poi nel weekend è precipitata tutta la situazione come ben conosciamo. Quindi ho preferito comunque rimanere qua, già che mi trovavo qui, perché tanto lavoriamo tutti da remoto e qui forse c'è un po' di conforto, di aria buona, un po' di più. Poi siamo tutti sotto le stelle, ma speriamo bene. Come si intitola questo nuovo singolo che abbiamo sentito? È uscito il 13 marzo, io direi... Niente da dire, è scritto in maniera un po' particolare, spiegami. Sì, il significato è proprio niente da dire, è scritto con l'NY iniziale perché vabbè, ogni tanto mi piace fare questi giochi di parole che è un po' riferito a New York, nel senso che la canzone è stata prodotta da me e da Franco Cristaldi e poi finalizzata, come ho fatto anche per altri miei lavori recentemente, con Greg Calbi, che è un ingegnere del suono, uno dei migliori insomma, sul globo, che sta a New York, con cui ho fatto tanti lavori. Quindi per creare un po' questo ponte anche che andava a spiegare la produzione del lavoro, io l'ho intitolato Niente con la NY di New York, ma che potrebbe anche dire niente letto così, ente di New York. E era un riferimento anche a una città dove io ho vissuto molto, dove vado spesso per lavoro, e quindi che poi sai, io paragono sempre la nostra Milano un po' a New York. Ecco. Dedicato a chi sa esistere senza gridare. Non è scontato in questo periodo. No, e casualmente la canzone si imbatte in questo periodo perché dovevamo uscire con le persone che lavorano con me, la decisione era più o meno febbraio, poi ci siamo arrivati alla vigilia e ci siamo trovati vicinissimi a Sanremo e quindi logicamente abbiamo pensato di posticipare dopo Sanremo ed ecco lo scenario in cui ci troviamo. Chiaramente c'è questa dedica che io ho fatto, così come alcuni passi del testo della canzone che hanno un'attinenza sorprendente con quello che stiamo vivendo. Sono tematiche su cui io, come tanti altri artisti, tante altre persone, comunque insistiamo da diverso tempo, quindi diciamo al di sopra di ogni sospetto, perché è tanto che si desidera una voglia certamente di attualità, ma di aspetti sostanziali, di aspetti veritieri dell'arte, di ciò che gli artisti in qualche modo vanno a instillare nel diritto dovere del rapporto tra l'arte e il pubblico. Quindi ecco perché la dedica a chi sa esistere senza gridare, perché c'è modo anche di gridare con grandi silenzi. E c'è una frase che riassume un po' il significato di niente da dire nel ritornello, che dice, cita questi spazi immobili che chiamano lealtà. Ecco, sembra veramente fatto apposta per oggi, io però mi riferivo a quegli spazi che in qualche modo sono dettati dalla sofisticazione che diventa quasi mistificazione, quindi dalla routine, dalla corsa, dalla propulsione che poi diventa frenetica e non sedimenta niente. E quindi invece degli spazi mobili che però hanno voglia, hanno desiderio di sostanza, di verità e soprattutto di lealtà, perché è questo che in ogni professione, se vogliamo oltretutto poi uscirne bene da un periodo, da una prova così inaspettata e crudele come questa, sarà questione di lealtà e di dignità professionale e personale. Quindi alla fine Alberto, questo momento particolare secondo te porterà più verità nelle cose? Io me lo auguro, è un po' un trend di quello che insomma si sente nella reazione ad oggi, anche emotiva, ma anche del diritto dovere di vedere il bicchiere mezzo pieno, dobbiamo fare così, ma senz'altro io penso che ci stia in qualche modo riabituando a dei valori, a delle tempistiche a delle priorità che veramente erano andate perse. E con questo non è né un discorso nostalgico né un discorso di freno, è un discorso di qualità di direzione, cioè dove noi, la rotta che noi scegliamo per la nostra imbarcazione. Questo io penso che potrà essere il lato positivo di quando si uscirà augurabilmente presto da questo periodo. Anche perché, come tu dici nella canzone, c'è una bellezza squisita che aspetta di essere presa. Tu dove la trovi, questa bellezza squisita? Guarda, io per mio carattere, per il lavoro che faccio, la trovo chiaramente nel processo creativo, ma da sempre. Io ho una mente che è, diciamo, infantile, no? Vuole essere così, sono felice di averla, soprattutto in questo momento, perché credo che riuscire a pescare, trovare la poesia anche nelle cose e nelle piccole cose che ci circondano sia un po' il segreto della vita, ecco. Così come anche i grandi pensatori, i grandi saggi ci dicono: puoi girare il mondo 10 volte e poi alla fine ti accorgerai nella tua sostanza che non sei andato al di là della punta delle tue dita. Ecco, con questa attenzione bisogna cercare di dare, di profondere il massimo che si può, ma sempre con un concetto un po' disincantato, che poi è il motivo sempre ricorrente anche in geni del cinema come Spielberg, no? Quindi la figura del bambino che però ha capito ben di più dell'adulto ossessionato dal profitto, perché eccoli qua anche un po' qualche colpa per cui siamo arrivati a questo. Non voglio essere superficiale e come dire naif in questo caso. Voglio dire che se la specie umana negli ultimi 20-30 anni avesse speso delle montagne di soldi che sono state spese globalmente in altre direzioni, avesse rispettato un po' di più il senso della vita e chi ci ospita, cioè Madre Terra, probabilmente avremmo evitato anche questa cosa. Però il pezzo si chiude con "non ho più niente da dire in un mondo dove tutti lo fanno". Mi spieghi perché dici "non ho più niente da dire"? È chiaramente, insomma, un po' provocatoria la cosa, perché è proprio questa voglia a un certo punto di trovare il centro, quindi di non essere più complici e parte di una corsa frenetica che mi sembra essere il criceto sulla ruota nella gabbietta, a cui siamo molto obbligati negli ultimi anche decenni, ma sempre di più. Quindi mi piace dire "non ho più niente da dire", perché molte volte si sa che il silenzio invece esprime molto di più che una chiassosissima conversazione. Simbolicamente dico dove tutti lo fanno, perché è chiaro che i mezzi e le modalità quasi sempre sono la velocità, molto spesso un'arroganza dialettica che tende a prevaricare, ma molte volte anche senza una preparazione. E quindi un'altra dedica che io ho fatto, per esempio, sulle note di copertina di "Niente da dire", è che dedico la canzone a Seneca, perché è un esempio di filosofia di vita, è uno dei più grandi pensatori della storia del tempo, che comunque continua a insegnarci quello che è soprattutto anche un senso di relatività, cioè noi siamo complementari agli altri. E questo periodo sta in qualche modo evidenziando sempre di più un concetto della globalità molto molto più mirato a una costruzione e un rispetto del collettivo, piuttosto che a una globalità frenetica dove, lo sappiamo, siamo ammalati di simultaneità. Cioè noi vogliamo essere dovunque, in qualsiasi momento, eccetera, perché a questo ci ha portato, insomma, un po' la società, soprattutto negli ultimi anni. E non peschiamo più nel verticale, non peschiamo più nella profondità, non peschiamo più in quell'aspetto sentimentale che poi diventa, attenzione, qualità di professione, qualità di rapporto degli altri, qualità del nostro porci nei confronti di una società. Ho fatto i conti, festeggi 40 anni di attività. Che impressione ti fa questa cifra tonda? Ma guarda, non più di tanto, se non pensando in realtà le collaborazioni avute meravigliose sia in Italia che all'estero, un po' il percorso fatto. Uno dei doni forse dell'arte è quello in qualche modo di farti viaggiare in un'equazione spazio-tempo che è, torniamo in qualche modo all'aspetto della mente un po' con sindrome di Peter Pan, nel senso che se io ricordo i primi lavori fatti negli Stati Uniti con canzoni come Settembre, La Grande Grotta, così, e siamo agli inizi degli anni Ottanta, a me sembra soltanto qualche anno fa, e quindi in questo ringrazio perché è un dono dell'arte. Lo sto vivendo anche felice di aver così constatato e vissuto determinate aree e onde artistiche. E adesso io davvero il desiderio grande è che all'uscita di questo brutto incubo l'arte si vada veramente a riaccreditare, a riappropriare di queste cose, che gli artisti abbiano voglia, ma anche perché, ecco perché dicevo niente da dire, anche perché mi sembra che certe onde piuttosto facili e diciamo un po' puerili nella sostanza anche di un genere musicale che la fa da padrone, per quanto io adori certe cose della trap, del rap, i miei artisti preferiti per esempio ci metto Childish Gambino, Post Malone, Sigma featuring Birdie, queste sono le cose che mi piacciono, ecco, però quando poi si sente un trend che diventa univoco, monocorde, volgarmente fine a se stesso, dove non ci sento né protesta né proposta, ecco, dopo un po' c'è una suefazione per me anche proprio sensoriale, cioè non lo so, va bene, l'ha già detto quello, già detto quell'altro, già detto quell'altro ancora, quindi niente da dire sulla bellezza delle produzioni, perché ormai le produzioni insomma si fanno facilmente, ma avrei voglia personalmente, credo come tante persone, di risentire qualcuno che in maniera bello brutta, sbagliato, giusta che sia, mi racconti una cosa sua, vera, sostanziale, perché sa di essere parte di un magma che forse ha anche voglia di ascoltare belle cose. Oh, che meraviglia! Devo ringraziare moltissimo Alberto Fortis perché è sempre un regalo ascoltarlo, parlare con lui. Altro che niente da dire, come il titolo del tuo ultimo pezzo, un sacco di cose da dire, grazie Alberto. Io ti ringrazio a tutti che sui miei social, Instagram, Facebook, faccio degli appuntamenti quasi quotidiani con mini concerti, con anche dei colpi di teatro dove mi sto divertendo molto ad aprire le gabbie totalmente alla libertà artistica. Quindi io vi aspetto più o meno intorno alle 19:15 di sera, da giovedì a domenica senz'altro. Grazie mille, grazie Alberto Fortis. Ciao a voi, buona radio, che è importante ad oggi, sempre di più. Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto e tocca a me. L'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. A settembre e mentre il giorno sparisce, primavera verrà. Sarà dolce e nervosa, ma non mi scapperà. Salirò sul battello e non la fuggirò. Sarò avvolto per sempre, la bacerò. E i suoi lunghi capelli non li rivedrò più. A settembre lontano, dalle un bacio per me. La tempesta di neve non mi sorprenderà, ma in settembre che sarà? Ho lasciato tutto a te, e dille del mio amore, e dille che se può, poi io potrò aspettare, e l'accompagnerò, ho dentro il mio giardino, e sempre la terrò, ho da vicino. mentre ti aspetterò. Scusate, ma io e Roberta Frisani in regia stavamo cantando. Io ovviamente col microfono spento, Roberta con la mascherina, quindi non so se eri intonata o meno, perché non solo, ma non riuscivo neanche a capire se stavi facendo lip sync o cantando davvero, perché ovviamente davanti a me ci sono Roberta Frisani, Edoardo Lavezzari con mascherina e guanti, e dunque insomma ci diamo dei cenni con gli occhi, niente di più, però insomma lavoriamo in totale sicurezza. Fatemi salutare anche Alessandro Schirano, che oggi lavora da casa e poi ascolta tutto, mi manda i messaggi, io sono, temo sempre i suoi giudizi, perché poi ci dice se stiamo facendo bene, per bene oppure no. Allora, con un pochino di ritardo diamo la linea alla viabilità. Ovviamente in questo periodo dobbiamo soprattutto stare attenti se c'è qualche situazione in attesa, perché se ci spostiamo solo per necessità, ma è utile sapere anche quello che ci riserva la situazione di strada e autostrada. Poi torniamo insieme, io ve l'ho promesso fin dall'inizio di quest'ora che avremmo ballato, quindi torniamo insieme e tra poco si balla. Radio Tube Social Village. Poi non ho commentato quanto mi è piaciuto il fatto che Alberto Fortis sia un appassionato di Childish Gambino, di Post Malone, perché insomma un sacco di cantautori non amano il rap e la trap, insomma va bene così, però devo dire che il fatto che lui sia aperto anche alla musica nuova mi ha fatto molto piacere. Allora, è arrivato anche un messaggio al 349-238-6666 che volevo leggere, perché un ascoltatore scrive: Caronte l'ho visto, se vuoi te lo posso spoilerare tutto, ma no dai, perché è un poliziesco, se mi spoileri io poi dai, lo voglio vedere, perché abbiamo parlato nel primo blocco del nostro RadioTube di serie spagnole e appunto Caronte è quella, l'ultima che è stata proposta da Amazon Prime Video, ma ovviamente abbiamo parlato della Casa di Carta, che un ascoltatore ha cioè mi ha scritto con gli emoji, io non lo capivo, da sola c'era una casa e un rotolo di carta igienica, ma non capivo, ho capito dopo che parlava della Casa di Carta. Vabbè, non importa. Siete pronti per ballare? Io sì, anche perché questa sera c'è un appuntamento. Adesso vabbè, ve lo dico. Io sono pronta per ballare. Purtroppo mancherò l'appuntamento del pomeriggio perché noi siamo in diretta fino alle 18, ma lei si sta preparando. È l'appuntamento imperdibile della quarantena per passare un'ora di leggerezza in mezzo a tanti momenti di brutti pensieri. Ogni tardo pomeriggio migliaia di persone si collegano con il suo account Instagram per il suo DJ set in diretta. Siamo arrivati a cifre impressionanti anche nell'appuntamento del sabato sera alle 22. E allora anche noi andiamo sulla terrazza di Joe Squillo. Joe in the house, free drink a tutti quanti amici, open bar, musica, ora felice. Abbiamo voglia di abbracciarci e contro l'allontanamento sociale noi creiamo un avvicinamento social e quindi cerchiamo di dare tutte le di vibrare nelle onde magnetiche di questi raggi solari fantastici di questa primavera, portando questa nostra preghiera agli angeli che ci ascoltino nel prendere cura di questa realtà. Quindi un momento di felicità, proprio pensando che dobbiamo ripensare al futuro, al domani, e quindi ecco perché insomma questo momento di ripresa e di rinascita. Joe, allora lo dico io per prima, stacco per un'ora da tutti i pensieri, da tutte le preoccupazioni, i dolori. Mi immagino per un'ora di essere a ballare su un terrazzo assolato con gli amici, un drink, una chiacchiera, ma a te com'è venuta l'idea? Guarda, l'idea è nata dopo che sentivo le mie amiche che mi chiamavano, chi sdraiata su un letto con le lacrime a piangere, chi si sentiva sola, chi era demoralizzata perché le tournée come le mie ballerine che sono state, che ovviamente sono saltate come tutti, quindi il lavoro, ma anche proprio una tristezza dell'isolamento. E allora ho detto, dopo aver cucinato una torta, messo un posto un po', ho detto, ma qual è lo scopo, come dire, di un artista per me, che non è questo, no, di stare così in casa, ma di dare un senso anche a questo dolore. Io che di dolore, insomma, l'ho attraversato in quest'ultimo periodo, perché ho perso i miei genitori in un mese, tutte e due, uno proprio per questa broncopolmonite, che probabilmente era già un'anticipazione, quindi so di che cosa stiamo parlando quando parliamo di tragedie all'ospedale, di trafile, di questo insensato dolore che si prova. E quindi ho detto, diamo una risposta alle mie amiche, ho preso i manichini, l'ho vestito e ho detto, ragazze, non siete sole, siete con me, siamo insieme, siamo uniti, e vi metto su un po' di musica felice, così cerchiamo di capire che questo spazio, questo tempo che ci siamo presi e che appunto ci hanno dato, è uno spazio, un tempo sul quale dobbiamo riflettere e usarlo nel miglior modo possibile, proprio per onorare i nostri cari che non ci sono più, per onorare chi sta soffrendo, per onorare anche, voglio dire, i medici, i farmacisti, tutti quelli che stanno lavorando, ma di dargli anche il senso della gioia della vita che continua, perché se no passano soltanto le macchine con questo messaggio di paura che è anche insano, cioè ci fa male, ci fa del male, perché sentire la paura indebolisce i nostri organi, i polmoni, i reni, e finisce che ci ammaliamo anche noi. Allora credo che sia stato un po' una sorta di autentica, come dire, creazione di questo movimento, che è il movimento di liberazione, che è nato proprio per unire la più bella gente, quindi la gente che ha voglia comunque di gridare e di celebrare con questo rito la vita. Sembra una stupidaggine, ma quando tu apri la diretta arrivano tutti. Nei giorni scorsi ne hanno parlato i giornali, le TV, i siti, spesso hanno menzionato gli influencer e le star che vengono ad assistere alle tue dirette, diciamo le star col bollino blu di Instagram, che vengono appunto a ballare idealmente. Chiara Ferragni con Fedez, Simona Ventura, Emma, Alessandra Amoroso. Quello che però conta sono le persone che si mandano messaggi, interagiscono, scherzano, si fanno forza. È così, guarda, è l'autenticità proprio di questo popolo meraviglioso che proprio è nato con 40 persone, poi è diventato ovviamente in una notte siamo diventati in 152.000, e questo è il bello, ma è proprio il bello, è perché è partito da piccolo, dalle piccole case, dalle persone che stirano, i bambini che imitano con i piatti di casa, cioè dalle piccole cose, questo significato di essere così, così veri, così anche se vuoi un po' ironici di tutta questa nostra messa in scena, no? Quindi cosa ci basta? Alla fine ci basta poco, ci basta questa voglia di sentirci tutti parte di questa tribù che ha come denominatore le passioni, la grande passione, il grande impegno per la propria vita, per il proprio lavoro e per il proprio anche destino, e quindi il fatto di prendere in mano il proprio destino e tirarlo su con questo entusiasmo e attraverso la musica, che è un po' la lavatrice dell'anima, che ha questo senso, con questa azione artistica che è destinata ovviamente, come dicevi tu, non soltanto per chi ha il bollino blu, ma è un super privé destinato a tutti, veramente molto democratico, che è la cosa che mi è sempre piaciuta fare, perché come artista io parlo a tutti, no? E quindi mi va bene, mi piace molto che ci siano anche persone così, tra virgolette, così importanti, così belle, così seguite, così amate in tutto il mondo, si siano messi in gioco e siano venuti voglio dire, a casa mia, come anche a casa tua, perché poi in realtà questa casa è la casa di tutti, è la casa che non ha porte, non ha finestre, ma è veramente aperta. Quindi open bar, open window, siamo tutti aperti, tutti connessi, tutti possono dire la loro, e fra l'altro fanno morire da ridere perché sono nate delle cose, delle comiche, cioè come i bimbi di Joe oppure le mie ballerine, no? Adesso hanno anche il sito, cioè Valentina e Michelle sono diventate super cool, super famosissime. Allora, io sono già pronta per questa sera dalle 22 in diretta Instagram. Joe, ho il tacco 12 e un vestito pazzesco, scintillante. Grazie Joe, a presto. Allora, vabbè, questa siamo donne, beh, perché poi tutti su Instagram le scrivono metti siamo donne, perché davvero è un momento, qualcuno scriverà, lo so già che scriverete adesso, la superficialità, ma avete sentito, insomma, è una ognuno ha le proprie storie, i propri momenti da superare in questo periodo, e lei si è inventata questa cosa per superare lei per primo un momento di difficoltà. In tanti le scrivono, Joe, ci fai distrarre per un'ora, e alla fine devo dire che questa cosa funziona, cioè ognuno di noi deve trovare il modo per anche passare il sabato sera facendo finta di andare a ballare col vestito scintillante. Questa sera io mi metto i tacchi e vado a ballare. Vedo Roberta dall'altra parte del vetro che sicuramente dietro la mascherina sta ridendo. Io il vestito scintillante lo metto e anche il tacco. Anche Edo, no, tu il vestito scintillante, il tacco no, però ragazzi stasera si va a ballare, lo dico anche a Vincenzo Miglietta che vedo in collegato da Roma per il giornale radio, allora stasera si va a ballare da Giosquillo. Sono le 16:59, il momento di dare la linea al giornale radio delle 17 appunto a Vincenzo Miglietta, noi ci risentiamo tra poco.